Bibbia Martini, primo libro dei Re 19 Elia fuggendo nel deserto per paura di Gezzabele, svegliato dal sonno mangia del pane mandatogli da Dio, e beve dell'acqua, e così giunge al monte di Dio Horb, e ivi nella spelonca, dolendosi di essere rimasto solo profeta del Signore, sente dirsi, che 7.000 ne erano restati, egli è mandato a ungere Azael re di Sirio, e Geo re di Israele, ed Eliseo profeta. Ora Sciab raccontò a Gezzabele tutto quello che Elia aveva fatto, e come aveva uccisi di spada tutti i profeti. E Gezzabele spedì un messo ad Elia, che gli dicesse, gli dei facciano a me questo, e peggio, se domani a quest'ora io non farò a te, come è stato di ognun di quelli. Elia pertanto ebbe paura, essi partì, e andava dove la fantasia il portava, e giunse a Bersabee di Giuda, e ivi licenziò il suo servo, e si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino. Ed essendo andato a sedere sotto un giunipero, si desiderava la morte, e disse, basta, o Signore, prendi l'anima mia, perocché non son io qualche cosa di meglio che i padri miei. E si gettò per terra, e si addormentò all'ombra del giunipero, quando ecco, che l'angelo del Signore il toccò, e gli disse, alzati, e mangia. Si volge egli indietro, e vede presso al suo capo un pane cotto sotto la cenere, e un vaso d'acqua. Egli adunque mangiò, e beve, e di nuovo si addormentò. E l'angelo del Signore tornò la seconda volta, e lo toccò, e gli disse, alzati, e mangia, perocché lunga è la strada, che ti rimane. Ed egli alzato si mangiò, e beve, e fortificato con quel cibo camminò 40 dì, e 40 notti, sino al monte di Diorb. E giunto colà se ne stava in una spelonca, e tosto il Signore gli parlò, e gli disse, che fai tu qui, o Elia? E quegli rispose, io ardo di gelo per il Signore Dio degli eserciti, perché i figliuoli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, han distrutti i tuoi altari, hanno uccisi di spada i tuoi profeti, san rimaso sol io, e mi cercano, per tormi la vita. E gli disse, esci fuora, e sta sul monte dinanzi al Signore, ed ecco, che passa il Signore, ma innanzi al Signore un vento grande, e gagliardo da sciorre i monti, e spezzar le pietre, e non col vento il Signore, e dopo il vento un tremuoto, non col tremuoto il Signore, e dopo il tremuoto un fuoco, non col fuoco il Signore, e dopo il fuoco, il fischio di un'aura leggera. Ciò avendo udito Elia, si coperse il volto col mantello, e uscito fuora si stava alla porta della spelonca, ed ecco una voce, che disse a lui, che fai tu qui, o Elia? Ed egli rispose, io ardo di gelo per il Signore Dio degli eserciti, perché i figliuoli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, distrutti i tuoi altari, hanno uccisi di spada i tuoi profeti, san rimaso sol io, e mi cercano, per tormi la vita. E il Signore disse a lui, va, e torna indietro per la tua strada stessa del deserto verso Damasco, e quando sarai giunto colà, ungerai Azael re della Siria, e Geu figliuolo di Narrisi lo ungerai re di Israele, e ungerai profeta in tua vece Eliseo figliuolo di Sapat, che è di Abel Meulla. E avverrà, che chi avrà scansata la spada di Azael, sarà ucciso da Geu, e chi avrà scansata la spada di Geu, sarà ucciso da Eliseo. E io serberò me in Israele 7.000 uomini, i quali non han piegato il ginocchio dinanzi a Bol, e nessun dei quali ha costata la mano alla sua bocca in adorandolo. Partitosi adunque di là Elia, trovò Eliseo figliuolo di Sapat, il quale arava la terra con 12 paia di buoi, ed egli era un di quei, che aravano colle 12 paia di bovi, e giunto a lui Elia, gettò sopra di lui il suo mantello. E quegli, lasciati subito i bovi, corse dietro ad Elia, e disse, concedi, ch'io vada a dare un bacio a mio padre, e a mia madre, e poi ti seguirò. E quegli disse a lui, va, e torna, perocché quello, che toccava a me, io l'ho fatto. E partitosi da lui, prese un paio di bovi, e gli scannò, e colle legna dell'aratro cosse le carni, e la diede alla gente, perché le mangiasse, e partì, e andò, e seguitò Elia, e lo serviva. Note, 19,32 punti Elia. Ebbe paura, ecco. Dio sottraendo ad Elia quello spirito di fortezza e di costanza, col quale egli si era renduto terribile a re, fa che egli si sbigottisca e si abbatta alle minacce di una donna. Con tali vicende tiene Dio nell'umiltà i suoi santi, facendo loro conoscere, come tutto quello che sono, lo sono per dono di lui, e per effetto della sua grazia. A Bersabee di Giuda. Città a confini della Palestina da mezzodì. Ella era della tribù di Simi dopo essere stata di Giuda. Ios. 19. 2. La tribù di Simi essendo mescolata con quella di Giuda, i re di questa tribù erano padroni di Bersabeu. Licenziò il suo servo. Per compassione di lui, non volendo esporlo a patimenti e alla fame nel deserto. 19,42 punti si desiderava la morte. Afflitto pei mali pubblici, veggendo la religione abbattuta, l'empietà dominante, la persecuzione che infuriava contro dei buoni, bramò di morire per ordine di Dio piuttosto che essere esposto a perire per le mani di Jezabele, lo che sarebbe stato come un trionfo per gli idolatri. 19,82 punti fortificato con quel cibo camminò 40 dì, ecco. Andò qua e là pel deserto, in che impiegò 40 interi giorni di viaggio prima di arrivare a Lorb. La distanza da Bersabee a Lorb non esigeva tanto tempo, ed Elia era già di là da Bersabea, quando l'angelo gli parlò. Ma egli non fece la strada diritta verso quel monte. 19,112 punti esci fuori e sta sul monte Ec. Dio vuol consolare Elia con apparire a lui nello stesso luogo, in cui apparve a Mosè, e nel medesimo tempo vuole, istruirlo. Prima dunque di farsi sentire a lui, fa precedere un'impetuosa bufera, indi un tremuoto, e finalmente un gran fuoco. Con questa si ricordava al profeta, come Dio ha nelle sue mani tutti gli elementi per servirsene quando che sia a sterminare peccatori, ma Dio pieno di bontà e di misericordia non ama di farsi conoscere co gastighi, e per questo né quando infuriava la bufera, né quando il monte era scosso dal terremoto, né quando divampava la fiamma si fece egli sentir dal profeta, né gli parlò, ma quando, passati tutti quegli spaventi, cominciò a sufolare sul monte un'aura dolce e soave simbolo della benignità e della pazienza, facendo con ciò intendere a Elia come il carteggio che egli ama, e quello della bontà, e della clemenza, e che egli non dà la mano a flagelli, se non sforzato, per così dire, dall'umana malvagità e ostinazione. Notisi, che quello, che leggasi nei versetti 11 e 12. E tutto discorso dell'angelo con Elia. In qualche manoscritto dei 70 il versetto 12 termina in questo modo, e dopo il fuoco il fischio di un'aura leggera, con essa sarà il Signore. Ecco che passa, ecco. Ecco che passerà. 19,132 punti si coperse il volto col mantello. In segno di gran riverenza. Altrettanto fece Mosè, Exod. 3. 6. 19,152 punti ungerai Azaelim re della Siria. Secondo la frase ebrea ungere un re vuol dire semplicemente dichiararlo, designarlo per re. Elia adempie quest'ordine per mezzo di Eliseo, il quale andò a Damasco, e predisse ad Azaele il regno della Siria, 4. Reg. Miele 2. La. Dio in questo fatto dimostra come la sua previdenza si estende a tutti i popoli e a tutti i reami. 19,162 punti Geu figliuolo di Namsi. Propriamente figliuolo di Giosafat, nipote di Namsi. Ungerai profeta in tua vece Ic. Dio da un compagno d'Elia, perché questi dole vasi di essere il solo profeta destinato ad opporsi all'empia Jezabel e alla turba degli adoratori di Baal. Abel Meula era nella tribù di Ifriem, 4 regi. 4. 12. 19,17 2 punti e chi avrà scansata la spada di Geu, sarà ucciso da Eliseo. Vale a dire, Dio per punire gli adoratori di Baal, non solo armerà contro di essi i due regi Azael e Geu, ma disporrà, che anche un uomo, la di cui professione è alienissima dallo spargere il sangue degli uomini, contribuisca al loro esterminio, facendo uccidere dagli orsi 42 ragazzi di Betel, sede primaria dell'idolatria. 19,18 2 punti e la serberame in Israele e l'apostolo che citò questo luogo, Rom. 11. 4. Yes, mi san riservato ec. Ma il senso rimane lo stesso. Vedi le note in quei luogo. Nessun dei quali ha accostata la mano alla sua bocca. Era uno dei segni di adorazione tra gli idolatri, l'accostar la mano sulla bocca per baciarla. Plinio Lib. 28. Cap. 2. Nell'atto di adorazione portiamo la destra alla bacca, baciandola. 19,22 punti quello che toccava a me, io l'ho fatto. Va e torna, però che da quello, che io ti ho fatto tu dei conoscere, che sei già dedicato al servizio di Dio, ho fatto io le mie parti, fa tu le tue.